Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte settima. È passato un istante lunghissimo di silenzio da quando questi qua hanno smesso di tirare giù le bombe dal tetto e hanno cominciato a scendere giù per la scala a chiocciola. Per scendere la scala a chiocciola dal tetto alla rotonda del secondo piano, attraversare il corridoio fino in fondo e entrare in questo camerone dove eravamo tutti è una questione di pochi secondi. Se lo fai normalmente, ma questi ci hanno messo un minuto buono a farlo, a arrivare, perché scendevano giù con molta cautela, scendevano giù tutti scafandrati con questi giubbotti antiproiettile, con questi caschi integrali, e quando finalmente sono arrivati giù in rotonda subito hanno cominciato a sparare raffiche di mitra nei corridoi, da tutte le parti, sparavano come impazziti, coi mitra, in giro dappertutto, e noi tutti quanti gridavamo: ci arrendiamo, non sparate. La scena che ho visto è stata che ho visto uno di questi, tutto scafandrato, entrare, ma in modo molto calmo, ha messo un piede dentro il camerone, ha visto tutti quanti in fondo covacciati per terra e subito ha tirato una raffica di mitra contro il soffitto. Poi ha buttato dentro una bomba, dentro il camerone, una bomba non esplosiva, una bomba di quelle accecanti, quelle che usano questi comando, come diavolo si chiamano. Infatti ti lascia intontito, perché fa una luce abbagliante, incredibile, un boato enorme che ti stordisce e insieme una luce, ma una luce che veramente ti acceca. E infatti chiudi gli occhi, ma poi dopo ti resta questa luce dentro gli occhi e resta anche se chiudi gli occhi, ti resta per qualche secondo e non capisci niente, resti completamente intontito. Hanno buttato nel camerone dove eravamo una bomba di questo tipo, qua, e allora la cosa che ho sentito è stata che una guardia, cui si è infilata sotto le gambe e mi stringeva aggrappandosi perché ormai tutti avevano delle reazioni assolutamente scomposte. Eravamo tutti quanti seduti con la schiena appoggiata contro il muro. Ora questi della porta hanno cominciato a sparare coi mitra, delle raffiche a mezzo metro sopra le teste. Allora ovviamente tutti quanti tendevamo a sdraiarsi per terra, a appiattirsi il più possibile, perché questi sparavano, sparavano e insultavano, urlavano: figli di puttana, vi ammazziamo tutti, qua e là, e continuavano a sparare poco sopra la testa della gente. Poi hanno cominciato a farci girare tutti quanti a calci, sdraiati giù con la faccia contro il pavimento. Tutti quanti hanno capito immediatamente e si sono messi tutti con la faccia in giù, da soli, senza neanche troppi inviti. Anche le guardie sequestrate che stavano lì, che si erano prese dei calci in faccia, anche quelle che avevano tentato di dire che loro erano delle guardie, tutti con la faccia contro il pavimento, in modo che tu non vedevi più niente. Poi hanno cominciato a portare fuori uno per uno la gente del camerone, hanno cominciato a portarla fuori nel corridoio. Non vedevo più niente, ma sentivo le raffiche di mitra sui muri che tiravano continuamente, le urla, gli insulti, i colpi a quelli che venivano portati fuori a calci. Urlavano: porci, rossi, carogne, bastardi, vi ammazziamo tutti. Nel frattempo sotto si sentivano esplosioni terribili, perché nel frattempo anche sotto avevano sfondato, erano state gettate anche delle caffettiere. Portavano fuori la gente, uno per uno dal camerone. Io sono stato l'ultimo, siccome erano tutti allineati lungo il muro e hanno cominciato dalla parte opposta alla mia, io ero l'ultimo, proprio l'ultimo, e sentivo solo i rumori, perché non vedevo più niente. Ero con la faccia a terra, non vedevo praticamente più niente. L'unica cosa che sentivo erano questi che sparavano e insultavano, erano anfetaminici, drogati, gridavano veramente come matti, sparavano continuamente, poi prendevano la gente e la portavano fuori nel corridoio. Sentivo le botte che gli davano mentre li portavano fuori nel corridoio e lì poi sentivo che non c'erano più raffiche, ma solo colpi singoli. Metti le mani sulla testa e poi sentivo sparare due colpi singoli. Allora lì ho detto: questi li ammazzano, li stanno ammazzando tutti, ma ti giuro, adesso è passato del tempo. Ti giuro, io ero perfettamente convinto che stavano uccidendo tutti e che ci facevano uscire uno per ucciderci tutti, uno per uno, nel corridoio. E tutti lì eravamo convinti di questo. Sentivamo quei colpi, isolati lì fuori, nel corridoio. E poi rientravano per portarne fuori un altro. Non so quanto tempo è durato questo. Io stavo lì, con la faccia giù, non avevo idea quanti ce n'erano ancora prima di me. Aspettavo da un momento all'altro che toccasse a me. Ero convinto che proprio ci ammazzavano tutti, anche perché la situazione era tale, è chiaro. Mi dicevo, se entrano così è perché ti ammazzano. Se tirano le bombe in quel modo vuol dire che sono venuti qua per ammazzarci tutti. E anche le guardie hanno subito lo stesso trattamento, perché questi non potevano distinguere le guardie sequestrate dai detenuti. Quelle gridavano: siamo delle guardie, siamo delle guardie, ma questi non gli davano retta, gli hanno fatto lo stesso trattamento, identico, anche a loro, le hanno picchiate, trascinate fuori a calci, anche loro le hanno portate fuori nel corridoio, e anche loro pensavano e erano sicuri che li ammazzavano. Loro erano convinti come noi, li hanno portati fuori nel corridoio. Li hanno messi in ginocchio e gli hanno sparato sopra la testa finché poi, in un secondo tempo, li hanno identificati, perché dopo che hanno preso anche il pianterreno è salito sopra un comandante delle guardie, che effettivamente lui li conosceva, però prima hanno subito anche loro lo stesso trattamento. Comunque, la cosa più assurda che mi è sembrata è stata come era lungo il tempo che non finiva mai. Perché io poi ero l'ultimo e sentivo portare via tutti, uno per uno, prima di me, e mi dicevo: qui adesso mi ammazzano. La cosa strana era che ero proprio convinto che mi ammazzavano, per cui mi dicevo: è finito tutto quanto. Adesso mi ammazzano come tutti gli altri, però la cosa strana è che ero completamente tranquillo rispetto a questa cosa. Non ho avuto reazioni, scomposte. E poi ho visto che anche gli altri compagni, nessuno aveva reazioni scomposte. Tutti erano stati completamente tranquilli mentre aspettavano il loro turno per essere portati fuori. Non so, forse perché c'era in tutti un atteggiamento di accettare questa cosa come inevitabile, non so. Poi, quando sono arrivati a me, mi hanno preso per i capelli, un po' di calci, un po' di storie, un po' di botte, e neanche le ho sentite. Ti immagini se senti le botte in quel momento? Le botte erano la cosa che non sentivi nemmeno, perché pensavi solo al fatto che ti ammazzavano. Ma anche allora ero completamente calmo. Sono arrivato sul corridoio, mi hanno dato una botta, non so con che cosa, una botta così, col calcio del mitra, credo. Mi hanno buttato per terra e io allora ho fatto in tempo a vedere che erano tutti quanti per terra, ammucchiati lì, sanguinanti. Però erano tutti quanti vivi, non avevano ucciso nessuno, erano tutti quanti feriti, sanguinanti, però tutti quanti si muovevano, lì stessi per terra, con la faccia a terra. In quel momento ho visto uno di questi scafandrati, che ha alzato, che ha preso per i capelli un compagno, gli ha alzato la testa e gli ha chiesto: come ti chiami? E questo gli ha detto il suo nome. Allora quello gli ha dato con la canna della pistola una botta terribile, qua, ma proprio una botta fortissima, qua in mezzo agli occhi, e gli ha tagliato tutto qua, e gli è sceso tutto il sangue, e poi a uno hanno cominciato con le pile, hanno cominciato a tirarli su per i capelli e a chiedergli con le pile, a chiedergli il loro nome. perché ormai era buio, tra le ombre tu vedevi queste figure che si muovevano enormi, gigantesche, perché tra l'altro erano tutti quanti enormi, tutti molto grandi e ingigantiti da questi scafandri. Forse ingigantiti anche da questa situazione psicologica in cui ti trovavi, con questi scarponi enormi, con queste tute mimetiche, con questi giubbotti antiproiettile, con questi scafandri, con questi stivaletti anfibi che davano calci a tutti quanti, che urlavano come matti, che insultavano e poi ti prendevano con una pila. Ce n'era uno con una pila grandissima, ti sollevava per i capelli, ti tirava sulla faccia, ti puntava la pila fortissima negli occhi e ti diceva: come ti chiami? E a me mi ha chiesto: come ti chiami? E ti metteva la pistola, a me mi ha messo la pistola in bocca e mi ha chiesto: io ho detto, e questo qua mi ha detto: hai paura? Io gli ho detto sì con la testa, ho fatto sì con la testa, che avevo paura, però ti giuro che in quel momento ho capito che non sparava, ero sicuro che non sparava. La porta si apre e il dottor Donnola entra nella stanza, mi viene incontro, serio, con la faccia preoccupata, ma tranquilla. Chiede agli altri se mi hanno perquisito e poi gli dice di uscire, perché vuole fare quattro chiacchiere con me, la carogna. Gli chiede se mi deve ammanettare. No, no, fa il dottor Donnola. E poi mi guarda, dicendo: noi ci conosciamo già. E gli altri escono in fretta dalla stanza e lasciano la porta socchiusa. Il capo fa il giro della scrivania e si siede dall'altra parte. Sposta con la punta delle dita i miei oggetti, che sono sempre lì. Sembra non avere nessuna fretta, poi finalmente attacca paterno e confidenziale. Senti, io lo so che tu sei un bravo ragazzo, sei uno di quelli che parlano nelle assemblee, che fanno le manifestazioni, ma io lo so che tu non sei uno di quelli che sparano. Io aspetto che vada avanti a dirmi qualcosa di più. Invece lui si ferma e mi resta lì a guardare fisso dietro i suoi occhiali quadrati, senza aggiungere altro. Allora tocca a me a parlare. Non so bene cosa dire e mi viene solo fuori da dire: ma perché mi avete portato qui? No, no, io non ti sto interrogando, dice subito Donnola. Non posso farlo io. La legge non lo permette, non vedi che siamo qui da soli e che non scrivo niente. Voglio fare solo quattro chiacchiere con te. Se tu hai qualcosa da dirmi, io non ci capivo niente. Butto lì, ma cosa le devo dire? Siete voi che dovete dirmi. Mi avete portato qua voi, non sono mica venuto qua io. No, insomma, tu non mi vuoi dire niente, fa Donnola. Niente di cosa chiedo io. Ma dei tuoi amici, della tua casa, no? Quello andava su col contagocce. Giocava al gatto e al topo. Quali amici? Quale casa gli faccio io? E Donnola sorride ironico. Come quale casa? Casa tua, la casa dove abiti. Ma io adesso da un po' di tempo non abito più regolarmente da nessuna parte, rispondo. Io subito. Abito un po' in giro, di qua e di là. Mi faccio ospitare da amici, a volte dormo a casa dei miei. Sorride ancora. Ma non sei tu l'affittuario della casa, Natale? Non è a tuo nome il contratto? Sì, sono io, perché? E Donnola fa un sospiro e dice tutto d'un colpo, guardandomi fisso: abbiamo fatto una perquisizione a casa tua e abbiamo trovato le armi. Io non ci ho creduto, giuro che non ci ho creduto. Ho pensato: questo bleffa e bleffa anche basso. E allora gli ho sorriso: senta, dottor Donnola. Gli ho detto: senta, non è il caso, ma Donnola è rimasto serio, troppo serio. È stato un attimo di silenzio, poi Donnola riprende: allora non mi vuoi dire proprio niente? No, dico io, se mi vuole fare delle domande, voglio un avvocato, e dico così perché non sapevo proprio cosa dire. Va bene, dice allora Donnola, dopo un attimo di silenzio. Non mi dici proprio niente, peccato, e rimane ancora lì fermo sulla sedia a guardarmi, aspettando, ma anch'io non mi muovo e non dico niente, finché Donnola si alza, chiama gli altri tre che stavano lì fuori nel corridoio a aspettare e gli dice: andate a casa dei suoi genitori. E poi si rivolge a me e mi dice: senti, sono andato, adesso dobbiamo fare una perquisizione a casa tua. Poi ti porteremo dal giudice che ti deve interrogare. Io ho detto va bene, ma la mia unica preoccupazione era quella di chiamare l'avvocato e ho detto a Donnola va bene, però io adesso voglio chiamare l'avvocato. Lo fate chiamare da qui? E Donnola, sempre placido, no, da qui no, lo chiami poi da casa tua se vuoi. Mi hanno rimesso le manette, questa volta però me le hanno messe davanti e quando scendevo le scale non mi hanno più spinto. Siamo arrivati giù, c'erano già pronte due auto civili, su una c'erano già quattro in borghese, mi hanno squadrato da cima a fondo e a me mi hanno messo nell'altra, dietro tra due di quelli che mi avevano arrestato, ma la carogna è rimasta giù, davanti c'erano due nuovi che non avevo mai visto e siamo partiti per il paese. Io ero molto preoccupato per come l'avrebbero presa mio padre e mia madre. Certamente si sarebbero spaventati e continuavo a pensare a cosa fare per non farli spaventare, per tranquillizzarli. I poliziotti erano abbastanza tranquilli. Il rumore che si sentiva era il gracchiare della radio in contatto con la questura. Si tenevano in contatto e ogni tanto segnalavano la posizione. Segnalavano dove si trovavano man mano che passavamo i paesi. Non avevano tirato fuori le pistole per puntarmele contro e quello che stava davanti e che non avevo mai visto a un certo punto si è girato e mi ha chiesto se voglio una sigaretta. Io ho una voglia matta di fumare, ma gli dico no, mi viene spontaneo di dirgli no, mentre vorrei dire sì. Poi, dopo un po' di giri, arrivano a casa mia. Le auto si fermano davanti al cancello, senza la più piccola incertezza. Evidentemente controllavano tutto da tempo. E quello che mi ha offerto le sigarette probabilmente era il graduato che comandava la spedizione, perché ha ordinato di togliermi le manette e mi ha chiesto serio se in casa avevo delle armi. Ma che, gli ho risposto io. I due autisti sono rimasti in macchina e tutti gli altri sono saliti in corteo per le scale. Io sono entrato per primo e ho parlato subito a mio padre e a mia madre che mi erano venuti incontro, sorpresi per tutta quella gente, strana. Io gli ho detto «State calmi, non preoccupatevi, questi sono poliziotti che devono fare una perquisizione. Non è niente di grave, non è successo niente. Adesso chiamo l'avvocato». Il graduato, con un tono gentile, mi interrompe e mi dice «No, senti, non è il caso di scomodare l'avvocato. Ci mettiamo un attimo. Anzi, se hai delle armi, diccelo subito, così evitiamo di perdere tempo. Tutti». Mia madre impallidisce quando sente la parola «armi». Io dico «Non ci sono armi, di nessun genere, ma l'avvocato io lo voglio chiamare lo stesso». «No», fanno in coro, svogliati tutti gli sbirri. Finalmente il graduato mi chiede dove abita l'avvocato e io dico qui vicino, qui in un paese vicino. Mi era venuto in mente il nome di un avvocato che sapevo che difendeva i malavitosi della zona. Io non lo conoscevo, ma avevo sentito parlare di lui. Da qualcuno, l'avvocato c'è, ma fa delle storie, è l'ora di cena e dice che preferirebbe non venire. Ma io insisto, gli dico che deve assolutamente venire. E così ci mettiamo tutti a aspettare l'avvocato, in silenzio. I poliziotti seguono ogni mossa che faccio e non mi staccano gli occhi di dosso. Io mi preoccupo soltanto che a mia madre non salti in mente di offrire da bere ai poliziotti, per cortesia. Mio padre è visibilmente sconvolto, accasciato sulla sedia, mi fissa con gli occhi sbarrati. Il tempo passa e l'avvocato non arriva. I poliziotti cominciano a lamentarsi perché si fa tardi e stanno facendo gli straordinari. Arriviamo a una mediazione. Io gli dico che possono cominciare a perquisire mentre aspettiamo l'avvocato, ma una stanza per volta e in mia presenza. Non voglio che si sparpaglino per le stanze e che io non possa controllare se mi mettono qualcosa che prima non c'era. Io non ero preoccupato per la perquisizione perché sapevo che in casa non c'era niente di compromettente. L'unica cosa che poteva interessargli era in cantina il mio archivio di documentazione del movimento, tutti i giornali, le riviste, i volantini di questi anni. Io ero geloso del mio archivio, avevo passato delle ore a riordinarlo, ma era tutta roba legale e quindi non avevo nessuna preoccupazione a tenerla in casa. L'avvocato è arrivato poco prima che i poliziotti scendessero in cantina a perquisire. Un bell'avvocato mi ero scelto, un vero mafioso, ruffiano, che prima cosa grandi stretti di mano con i poliziotti, coi quali evidentemente era intimo, e quando ha saputo che era una questione politica, ha detto subito che lui di cose del genere non si occupava. Solo a fatica sono riuscito a convincerlo a restare ancora un po', adesso che la cosa era quasi finita. Lui l'ha fatto di malavoglia, ma per tutto il tempo non ha fatto che parlare e scherzare con i poliziotti. E giù in cantina, poi quando hanno aperto l'armadio, il graduato si è passato una mano sulla fronte, disperato. E adesso come facciamo? Qui ci mettiamo 2 giorni a controllare tutto. No, facciamo così, sequestriamo tutto e poi ci pensano i magistrati. E così hanno cominciato il via vai del trasloco dall'armadio ai bauli delle macchine. Io ero disperato, sapevo che il mio archivio non l'avrei mai più rivisto. Sarebbe marcito nelle cantine di qualche questura o tribunale. Sarebbe scomparso. Come negli anni dopo sarebbero scomparsi tutti gli archivi dei compagni, distrutti da loro stessi, tutti i giornali, tutte le riviste, tutti i volantini, tutti i documenti, tutti i manifesti, tutta la stampa del movimento, distrutta, scomparsa, tutto cacciato in cartoni o in sacchi di plastica della spazzatura e bruciato o gettato nelle discariche, quintali di roba, stampata la storia scritta del movimento, la sua memoria, scaricata negli immondezzai, data alle fiamme per la paura della repressione, una paura giustificata perché bastava un volantino trovato in una perquisizione per farsi qualche anno di galera allora. I poliziotti caricano tutto il mio archivio nelle macchine e quando hanno finito mi dicono: beh, adesso si va in città dal giudice. Come se gli dispiaceva. Gli dispiaceva per loro, perché continuavano a discutere su quanto ci avrebbero messo, su quanto sarebbero tornati indietro. L'avvocato dice che lui in città non può venire e io non insisto neanche, meglio lasciarlo perdere quel figlio di puttana. Mio padre e mia madre cominciano a fare domande agitate ai poliziotti: ma dove lo portate? Quando torna? Eccetera. Quelli stanno sul vago, non gli dicono mica che sono agli arresti e anch'io per tranquillizzarli dico che è quasi sicuro che per la notte non torno, ma di non preoccuparsi e di prepararmi una borsa con un paio di mutande, una maglietta, il dentifricio, lo spazzolino, come per mio fratello quando era partito per il militare, ho detto a mia madre, scherzando. Poi scendiamo e quando mi volto e li vedo pallidi in cima alle scale, mi viene un senso di colpa. Penso che non dormiranno tutta la notte. Continuo a pensarci mentre le macchine attraversano il paese. E pensavo che poi sarebbe stato ancora peggio, perché ero convinto che in questa volta sarei finito dentro, che questa volta finivo proprio in galera. Abbiamo attraversato altri paesi prima di arrivare all'autostrada. Dai finestrini guardavo le case, le macchine che passavano, la gente a piedi e in bicicletta, la gente che se ne andava per i fatti suoi, quel movimento della gente lì sulle strade, così normale che non ci badi mai. E in quel momento mi pareva qualcosa di bello, mi è venuta la malinconia. Poi, in strada, ho visto le montagne lontane. Era il tramonto, vedevo le montagne e i paesi bianchi, giù giù in basso, che avevo visto da sempre e che forse non avrei rivisto per chissà quanto tempo, e mi sembrava di dirgli addio per sempre. Libri ribelli. Libri ribelli.